Il movimento dello yen non è sicuramente un segnale di forza dell'economia giapponese ed in generale non sono soltanto motivi endogeni al Giappone a favorire la corsa della valuta. C'è da dire però una cosa importante, noi tutti guardiamo in prima battuta i tassi di cambio misurati in valori nominali, quindi è vero che lo yen è sui massimi da 15 anni a questa parte nei confronti del dollaro e tante altre valute, ma guardato in termini reali, quindi corretto per l'inflazione, essendoci deflazione in Giappone, lo yen non è certamente sui massimi, anzi è ben sotto. Quindi questo è un primo punto per contestualizzare la forza e il livello del cambio. Poi ci sono dei fattori tecnici, dei fattori fondamentali che spingono all'apprezzamento dello yen. Anzitutto i fattori fondamentali. Proprio per via della deflazione, i tassi reali sulla divisa, nonostante i tassi nominali bassi, i tassi reali non sono così bassi. Quindi c'è un'attrattività in termini reali dell'investimento in yen. Altro punto è una accettazione di una condizione di deflazione all'interno del mercato giapponese. Ciò che si è visto nei mercati finanziari la scorsa settimana è un forte repricing del rischio di deflazione nei mercati occidentali. La probabilità di accadimento di situazioni di deflazione, quindi di riduzione dei prezzi dei beni nei mercati occidentali, quindi in Europa, negli Stati Uniti, è sicuramente aumentata con gli ultimi avvenimenti di natura macroeconomica che sono stati evidenziati nelle ultime settimane. Il Giappone, che è in questa condizione da anni, ha un grado, se vogliamo, di accettazione della condizione, quindi di tutta una serie di politiche economiche che vengono determinate da una situazione di deflazione, che sono già nei fatti, sono già nel mercato.